Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Abiti usati, questo è il tema del primo dei nostri approfondimenti. L'attenzione alla sostenibilità spinge le pratiche legate al riciclo dei capi d'abbigliamento e dei tessuti, ma attenzione alle raccolte abusive e alle regole per non sprecare nulla. Nel pieno della second hand mania e del boom dei negozi dell'usato si diffonde anche l'affitto di capi e accessori peer-to-peer. Il modello è quello della sharing economy. Oggi vi raccontiamo come funziona una startup che propone un vero e proprio guardaroba condiviso. Compie 40 anni uno dei personaggi cult del fumetto italiano. Scopriremo quale tra poco. Abbiamo incontrato il suo creatore. I brand puntano sui parchi a tema, la nuova scommessa per i consumi culturali, ma non solo e non solo per i bambini. Per il focus sui trend della settimana, riflettori puntati sul design e l'illusione, la nuova tendenza che conquista designer e consumatori. E in chiusura, come sempre, l'appuntamento fisso con l'Italian Factor. Oggi parliamo di Made in Italy e riconoscimento del talento. La borsa della spesa. Ti sei mai chiesto dove vanno a finire i vestiti usati che butti nei contenitori gialli? Esistono circuiti virtuosi che consentono la massima valorizzazione del vestito divenuto rifiuto. Ma non sempre finisce così. Perché a volte è indicata un'associazione che magari prende solo un piccolo contributo, mentre i vestiti servono ad alimentare gli affari di qualche azienda. Quella che sentite in sottofondo è l'inchiesta di Altro Consumo sul riciclo degli abiti usati. Trovate il link sulla nostra pagina Facebook, un'inchiesta che racconta le ombre della raccolta del tessile dismesso e fornisce una serie di consigli per ridurre al minimo gli sprechi. Ne abbiamo parlato con Livia Biardi, curatrice della ricerca realizzata da Altro Consumo in collaborazione con l'organizzazione umanitaria Umana. Siamo partiti dal fatto che in Italia soltanto il 12% dei rifiuti tessili viene riciclato, poco più di 1,5 kg a persona, quando invece sappiamo da alcuni altri dati che il consumo si attesta sui 14 kg, per cui c'è tutto una quantità di prodotti tessili che potrebbero essere raccolti e riciclati che invece non viene fatto. La raccolta differenziata del tessile non dobbiamo pensarla molto diversa da quella del vetro o della plastica, per cui una parte può essere riutilizzata tal quale, quindi o rivenduta nei negozi tipo quelli di seconda mano o donata alle persone che hanno più bisogno, oppure riciclate, quindi la materia prima, i tessuti, vengono riutilizzati per altri utilizzi e poi una minima parte in questo caso viene mandata in discarica perché alla fine non può più essere utilizzata. Non tutti i cassonetti posizionati in strada, quindi quelli dove noi andiamo a mettere i vestiti usati, sono autorizzati. Cosa significa? Che il comune deve dare l'autorizzazione a posizionarli sul territorio e inoltre devono essere ben identificabili le associazioni che si occupano di questa raccolta. Nel nostro video che trovate online sul sito www.altroconsumo.it abbiamo scoperto uno dei purtroppo non pochi cassonetti abusivi, quindi questi vestiti vengono sottratti alla normale filiera di riciclo e entrano nel traffico illecito, quindi nell'importazione illegale che può andare o nei paesi esteri o addirittura rientrare magari nei mercati all'interno anche dell'Italia. Cosa fare per essere virtuosi? Sicuramente bisogna guardare le indicazioni che sono presenti sui cassonetti, deve essere presente il nome dell'associazione, un sito, un recapito telefonico. Già se non è indicato nessun recapito della società è un indizio che ci deve far sospettare della correttezza di questi cassonetti. Nel dubbio si può contattare il proprio comune perché è proprio lui ad autorizzare questi cassonetti, quindi è lui che ha la mappa di quelli che sono autorizzati e di quelli

L'agroalimentare diventa così divertimento, assaggio e conoscenza, stalle, acquari, campi, orti, officine di produzione, laboratori, banchi serviti e grocery, persino ristoranti. Un vero e proprio itinerario della produzione del gusto, come lo ha definito Farinetti, che con il CAB di Bologna ha ideato il progetto. Avvicinatevi, perché più credete di vedere, più sarà facile ingannarvi. Focus sui trend. È illusione la parola chiave per la tendenza di questa settimana. Parliamo di design, in particolare di prodotti che giocano sull'effetto sorpresa. Puntano cioè a spiazzare, per così dire, il consumatore. Gli effetti speciali però in questo caso non arrivano, come spesso accade, dalla tecnologia, bensì dal progetto, dalla ricerca sui materiali, dalla forma. Ne parliamo con Lucia Kromecka di Future Concept Lab. Lucia, ben ritrovata. Buongiorno. Ecco, andiamo subito al sodo. Uno dei progetti che verrà presentato durante il Salone del Mobile è la Loop Mirror per Poro, la storica azienda di design che con il gruppo di lavoro Front presenterà uno specchio, ma che più che un specchio è una vera e propria scultura in legno, un oggetto prezioso in cui specchiarsi. Si tratta di una cornice a 8, numero dell'infinito, è anodata e crea due anelli, uno specchio in alto e una messola che rispecchia sporgente in basso. E dov'è l'idea inaspettata, l'effetto sorpresa? Piano piano che uno si avvicina al loop, mentre è molto vicino, la propria immagine scompare e appare l'immagine speculare dello specchio. Davvero sorprendente, un'altra faccia della realtà. Quindi, come abbiamo detto, sono oggetti che spiazzano il consumatore, lo coinvolgono in una nuova esperienza visiva, tattile, all'insegna dell'illusione ottica, come in questo caso. Sì, è chiaro che dopo anni di proposte per la casa in cui prevale la funzionalità e la centralità di progetti etici e sostenibili, il consumatore vuole vivere delle grandi emozioni, quasi vertiginose, però a ritmi decisamente più lenti. Ecco, non più la tecnologia lampo con effetti speciali che si spengono come fuochi d'artificio, ma vediamo che il consumatore è di nuovo entusiasta di fronte a oggetti per la casa che sono funzionali, sì, ma che danno vita a grande stupore, cioè creando delle illusioni ottiche grazie ad un sapiente uso dei materiali e delle forme. Ecco, l'iconicità anche delle forme, noi l'abbiamo chiamata questa tendenza illusion, perché riguarda oggetti che propongono salti di dimensione emotiva e cognitiva per fare percepire le altre facce della realtà. Facciamo qualche altro esempio di prodotto, sicuramente Lucia. È molto interessante, lo vediamo anche questo durante il Salone del Mobile, il progetto BARD da Giulio Iacchetti è interno italiano. Ecco, è un puff a forma di cupola, però è ispirato dall'iconico panettone di cemento di Enzo Mari che noi vediamo nelle strade di Milano, però è un puff tutto morbido, imbottito, niente a fare con il pezzo duro e scomodo che noi pensiamo subito quando lo vediamo, e soprattutto è un elemento invitante per l'interno della casa. Quindi un panettone per la mobilità domestica, però in questo caso. Si può anche dire. Poi vediamo anche altri piccoli progetti che arrivano da tutto il mondo, il gruppo di design Endo, i famosi giapponesi, hanno interpretato la classica tazza bianca da caffè di Starbucks aggiungendo alla base inferiore della tazza un disegno che simula la superficie delle bevande, perciò americano, latte, macchiato al caramello, questi gusti strani per noi italiani. Perciò loro fanno sì che quando la tazza è vuota, ma capovolta, sembra piena, perché questa è la nuova filosofia di Starbucks, di vedere il mondo con un occhio positivo, è sorprendente. Un altro interessante caso che arriva sempre da Giappone, sembra strano, ma tutti gli effetti sorpresa e le illusioni ottiche anche in termini grafici ci arrivano da Giappone. Un altro prodottino molto interessante è stato progettato da Yuma Kano, si chiama Screw. È una vite, una semplice vite, però trasformata, reinterpretata dal disegno classico a X della vite tradizionale in un smiley, perciò in una faccina sorprendente. È un kit che un progettista giapponese ci dà per poter avere un effetto sorpresa assicurato con piccoli interventi nella nostra casa, senza ovviamente cambiare la funzione della vite. Possiamo anche parlare di altri progetti che ci sono durante il Salone del Mobile. Ecco, questo più che un progetto possiamo dire che è una installazione, si chiama Agravic. Qui in Yoshoka ci ha abituato ormai da anni delle sue installazioni molto molto forti emotivamente, e quest'anno all'interno della mostra Marble Across Time lui presenterà il tavolo Agravic, Table of the Universe lo chiama anche. In realtà è un pezzo di marmo sospeso nell'aria, c'è una lastra di marmo enorme che si libera dalla gravità, almeno così sembra all'occhio, no? Perché è sempre una illusione ottica, e che ci invita a guardare meglio. Luci, anche per questo progetto invitiamo gli ascoltatori ad andarlo a vedere sulla nostra pagina Facebook. La domanda è: ma come? Come funziona? Questo lo dobbiamo andare a vedere. Apparentemente sembra che galleggia mezz'area, ma è attentamente bilanciato tra due bande acriliche verticali, due prismi. Ma è vero, i progettisti ci invitano a interagire e riflettere per capire. Ecco perché dobbiamo andare. Come in tutte le illusioni ottiche, noi dobbiamo capire dove c'è il trucco e dobbiamo essere e scoprirlo di prima persona. Ecco, qual è la vera funzione dell'oggetto e quali sono le sue caratteristiche magiche. Perciò dobbiamo vederlo da vicino. Se volessimo trovare un'ispirazione per questa tendenza, Direi che in termini più classici, ma sicuramente un artista che ha lavorato da tanti anni sull'idea dell'illusione, sulle installazioni immersive multisensoriali, è Sildo Meirelles, che in questo momento si trova a Hangar Bicocca. Italian Factor. Questo è il momento del nostro appuntamento fisso con le strategie per valorizzare il Made in Italy, moltiplicare il valore del nostro paese sotto la guida preziosa di Francesco Morace. Ben ritrovato. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Stiamo analizzando gli elementi di attivazione dell'Italian Factor, quale quello di oggi? Oggi è particolarmente importante, è il riconoscimento. Un riconoscimento che parte anche dalla consapevolezza delle nostre qualità. Molto spesso noi realizziamo prodotti straordinari che noi stessi non siamo in grado di riconoscere e soprattutto poi non li sappiamo raccontare. Potremmo dire, in un capovolgimento del savoir-faire francese, faire savoir, cioè noi dobbiamo non solo dimostrare un saper fare che viene in realtà riconosciuto nel mondo, ma dobbiamo imparare anche a far sapere, quindi raccontare, essere molto più consapevoli della nostra forza. Riconoscere e raccontare i talenti dell'eccellenza italiana, saperli valorizzare, è un tema molto dibattuto, trasversale tra l'altro in questo momento a molti settori. Sì, io credo che la chiave possa essere davvero quella di trasferire alle giovani generazioni la consapevolezza, diciamo, del loro talento potenziale, quindi ad esempio organizzare concorsi. Questo sta già anche avvenendo nel mondo della moda, nel mondo dell'alimentazione, però bisogna farlo di più, quindi coinvolgere le scuole, le università, i territori, con questa idea anche un po' di sfida, no? Cioè ciascuno dimostri il proprio talento in modo magari diverso e creativo. È un problema anche di leadership? Sì, bisogna ragionare su una forma nuova di leadership che possiamo definire leadership convocativa, cioè non solo dimostrare di essere i più bravi, ma provare anche a coinvolgere altri e avviare delle partnership. Questa è la cosa più difficile per noi italiani, che siamo personalisti e non ragioniamo in termini di sistema. Grazie a Francesco Morace, grazie a Fabio Cantadori in regia. A sabato prossimo 16:30, non mancate, un saluto da Maria Luisa Pezzali.